sonno, esce fuori il sole, porta vitalità, nemico del sopruso e della slealtà. Ama anche lui bellezza e stella, corre già. Stella con stupore scopre in sé l'amore.